i numeri delle targhe. Leggo, figurati se è qua lui, gli faccio le fotografie, intanto chiamo i carabinieri, glielo dico, non tocca le antenne che sto chiamando i carabinieri, lo faccio identificare a lui e a chi l'ha mandato a questo tecnico qua, perché se è il fotografo lo picchio pure, così impara a farsi i gatti sui. Ciao, calmati! Riccardo, non stavi andando a tuffarti in piscina, Riccardi? Va bene, stavo mettendo il costume. C'è anche il diritto al costume, se non lo sapevi, leggi chi la legge. Riccardi? Ma cosa sarai, ti ho mandato questo costume? Sì, bellissimo, praticamente parte dalla spalla fino a giù. È bellissimo, il costume intero. Le ho guardato, adoro. A Riccardino quando è in costume gli scatto le fotografie e te le faccio vedere. Oh Manuè. Natalie! Quando c'è il costume leopardato. Natalie, leggi la legge italiana, che c'è scritto anche il diritto al costume. Io non ti sto dicendo nulla, no. Se arriva un fotografo, non si fanno i cazzi suoi. A quello lì sei lui che mi tocca l'antenna, però per un bar west domani in corso Trinità. A chi ti ricordo di pugna a bocca ne regavo rigassare con i denti. Ti vedo qualche cosa a norma, te raccomando. Natalia invece il costume a papera e le ho portato con una papera al centro a quanto il coccomane. C'ho tutto a norma io, anche questo che sto parlando adesso è a norma, tutto a norma, perché ho omologato, non c'è problema, capito? L'altra volta me l'hanno trovato, l'apparecchio era omologato, però era per la legge vecchia, adesso ci vuole l'omologazione, c'è, se non sono tutti marcati CE, se li sequestrano. Addirittura. A me me l'hanno sequestrato, mi hanno sequestrato il rosmetro, solo il rosmetro costava più di 150 euro che era un Daiwa. Non mi dispiace di rubare a Chino che era una cavolata, ma il rosmetro costava 150 euro. Mi stavano portando via l'alimentatore, meno male che quello è marcato C'è e l'anno da Gadisha. E anche l'MB più 4 è marcato C'è, non me lo possono toccare. Guarda, era omologato, c'aveva la targhetta di omologazione, me l'hanno sequestrato ugualmente. Se non è marcato C'è, non lo puoi tenere, è uscita una legge 2-3 anni fa, questa legge qui. Ed è una legge europea, praticamente loro, per la sicurezza, se tu non hai un apparecchio marcato C'è, non lo puoi usare, anche se è omologato. E io mi ho dovuto comprare questo, ne ho un altro marcato C'è io, Polmar. Quello lì però, cazzo, non esce di radio, esce basso basso, esce, c'ha pochi watt, io dico uscirà con un watt, cosa ne so? Arrivi qua su in Ugnarugu. Ma ho dovuto comprare questo, che è un signor apparato, però bloccato in modo che sia omologato, capito? Questo è un Superstar 3009, però c'ha 40 canali solo e non dà più di 3 watt, capito? Così è, Manuè. Se vengono qua mi mettono 600 euro di multa se non c'è un apparecchio così, ma mi conviene, non penso proprio. Infatti abbiamo fatto la concessione nuova, tutto, capito, e già te lo saluto, saluti da Concetta, Manuè. Io prima di fare queste cose ho parlato con loro e loro mi hanno detto lei può parlare se c'è la concessione e tutto. Loro si chiamino un tecnico prima che interveniamo noi, perché se dopo interveniamo noi qualcuno deve pagare, chi si ne va a fare danno, non hai compreso? Bene, è normale che Allora, io siccome sono in regola, la televisione mia non la disturbo, anche se è sopra il palo di quello che disturbo, capito? Quindi sono loro che hanno le antenne marce. Se loro non fanno salire il tecnico e si aggiustano le antenne, baracchino non è, cioè televisione non ne vedono. E se intervengono loro si beccano una multa che se ne recano i baffi. Natalino, sono pronto per tuffarmi. Sentiamo dopo, ti aggiorno. Ciao, ciao Ricca. Buon tuffo, buon tutto. Ciao Ricca, mi raccomando, se la nata si deve per il domani. Ridendo, sta puzzinoso. Ehi, a tutte queste, tutti questi stralleri, a chi non può saltare in un'altra la gabicciuria, che è tutta pratica questa gabicciuria, si alza sopra, si va a Iossu, in guida di l'ultimo piano, e mi va a un salto su un detto, amico un bene. Mamma mia, già ti spiegherò di persona quando ci vediamo, Manuel, dai. E poi ci abbrienti con un'altra intimi. Sì, lo so. Ma che cazzo devi Raffaele? Come? Di Raffaele la devi fare. Di Raffaele, no. È morto. Morto? Sì. Non ho saputo niente, anche perché io non piglio giornali e né niente, non stavo frequentando a nessuno, anche perché non posso camminare, Manuè, che mi viene un dolore, se cammino poco poco, come cammino poco poco mi viene un dolore al polpaccio e mi devo bloccare la frutta, che è un durore allucinante, come che mi venga un grampo di chi di voi. E anche a me basta in una giù a Kirni e non iso Gunuzza. Ti sto dicendo, cazzo, non posso stare con questa gamba. Dalla volta che sono caduto all'ufficio di collocamento, non iso con più si vedo, Manuè. E allora perché hai visto, perché così, la mattina io sono cambiato dal giuro. E a me così, ma come ti che mi diri a un nervi, uemi? Basta non sia chisso Brooks, sono convincente pure io così. Io infatti adesso potrei fare che sia compuntura, che dice che passa, adesso vediamo. E fammi sapere, Manuè, perché io sono in un punto brutto, qua, sono a punto brutto. Mi devo sedere per forza, per passarmi il dolore, a chi se no non è qua. Non ne budi più, rimani, so chi si dumi. So che andato a città mercato, ma comprerà normalmente cosa. Ah, un qualcosa satellitare. Cazzo, ma era così avvatto. No, budi uccata rudolori. Mi già vera buon pugno, io mi disturbo di. Ehi, però è la gamba destra solo che me lo fa, poi un mal di schiena ci avevo ieri sera, mamma mia, non potevo stare. Sì, come fa? Come fa? Cazzo, forse è proprio così, ma va la giurernia del disco. Sì, la Dacca è fatta. Sì, la stacco, con l'attacco si vede o con la risonanza magnetica. Ma vedi, ho fatto un po' di cose dal corso, un po' di ginnastica posturale, 10 giorni, l'anno. E adesso mi devo fare un altro giorno di impegnati, vado al dottore per farmi le parate di Natalino. Ho capito, Manuel. Penso proprio che anch'io sto la stessa cosa, perché non si può, guarda, un duro ragazzo non si può resistere. Guarda che ci stanno chiamando, Natale. Chi è che mi chiama? Manuel, arriva troppo basso, non so se lo senti meglio tu, fammi da ponte. Io l'ho sentito basso, però già vi ho cambiato un po', adesso sono al ponte. Cosa ha detto? Se lo ascolti. No, basso basso, non è comprensibile, mi capisci? A me non lo so, ma non mi sentirà neanche a me. Se mi senti, non sei comprensibile, mi ti ascolto basso basso, l'amico, Kappa, se non lo ascolti per forza, a un certo punto. Ma devo telefonare a Pomponi a vedere se ha controllato quel decoder, perché il suo pure deve essere che è andato in protezione e non funzionava. Non arrivi segnale a quest'antenna, cioè il coso ti dice che c'è il 100% del segnale, però no, la qualità non arriva del segnale. Quelle da camper, ma io ce l'ho una magnetica qui che me l'hanno data, però non piglia un cavolo, io sono diventa un piccolo, capito, no, non prende. Se per funzionare quelle antenne che io ho anche l'amplificatore, se no, se io stacco l'alimentazione all'amplificatore sparisce il segnale, c'è poco segnale qua. Non vede mai nulla, tanto questa qui la musicata è da campo e praticamente la tiene anche nel toccare, figurati, e di qui gli alcuni tutti li chiamano nel toccare. Io qua ne ho provato una e non piglia un tubo. La presa mi dà di ritardi, ce l'ha anche io con la presa, costa 24 euro ancora. È la presa da Bricome. E vabbè, vediamo un po', proveremo anche quella. Ma adesso la parabola, me li ascolto via satellite, me li guardo. Adesso mi siamo a posto. Adesso telefono a Pompugno a vedere se ha guardato il suo coso, perché non riusciamo a orientarla. L'ho sentito prima, lo stava dicendo a e adesso lo telefono e vediamo un po', dai, ci sentiamo Manuel, alle prossime. Chi è avanti? Ciao Natalia, ciao Robè. E ho acceso 5 minuti, adesso adesso c'è qualcuno. Cazzo, non sono riuscito a orientare la parabola, boh. O è l'illuminatore che è andato a farsi fottere. E come mai non ci sei riuscito? Hasta quella che avevo in campagna, cazzo, ne aveva due addirittura di illuminatori. In 5 minuti subito arrivi duro segnali. Qua invece arriva il segnale al 100%, però non esce la qualità del segnale. Chissà cosa cazzo può essere. Mi hai messo il commutatore 12 kHz? No, è uno solo il coso. Sì, ma se non lo alimenti non funziona, deve essere alimentato. E quindi ci vuole un commutatore? No, dal ricevitore, quando metti il commutatore universale, tu l'hai impostato come universale per dargli la cosa, fa verticale o orizzontale, lo fai in automatico, tu metti convertitore universale, poi se c'è scritto 18 volt a seconda del coso, del tipo del convertitore che monti, tu siccome ci avrai sicuramente quello universale, devi mettere universal converter. No, non gliel'ho messo di queste cose, io non ne so uno. nel menu, devi entrare nel menu del decoder, quando ti appare la pagina, ci sono tutte le impostazioni, antenna c'è scritto, e poi si chiama il coso, il decoder. ICAN, TV-SAT è anche, c'è anche la scheda del TV-SAT, che è quella, una volta che è orientata la parabola devi attivare la scheda. Sì, sì, il canale è buono, un ottimo ricevitore, ne ho avuto uno io, è svizzero, l'ho avuto tanti anni fa, sono buoni. No, TV SAT ne ho due, anche io di decoder, uno ad alta definizione e uno normale, con due schede diverse. E no, devi impostare, entra sul decoder, devi impostare, dove c'è scritto impostazioni antenna, e leggi tutto quanto, le impostazioni e metti universal, decoder, convertitore universale, LNB universal dovrebbe uscire. Adesso provo a vedere. Ci sono di quelli convertitori vecchia generazione, volevano alimentati a 13 o a 18 volt, faceva la realizzazione orizzontale a 18 e a 13 la verticale, commutava, però erano per altri tipi di sistemi. Dire una cosa, l'antenna sei sicuro che l'ha orientata nella posizione giusta? Ehi, è venuto Pomponio, è venuto, però se magari sono le impostazioni che non gli fanno ricevere il segnale. Certo, prima di tutto devi impostare il decoder in base a quel convertitore che ci hai messo, poi devi essere sicuro al 100% che l'antenna sia orientata, in base a che cosa l'ha orientata a Pompugno, ha portato il strumento. Ehi, e arriva il segnale, forte, si sente anche il rumore, il suono, però la qualità non esce, o forse vuole impostato dalle impostazioni, c'è qualche impostazione che non è messa. Attenzione che tu sei fuori satellite, puoi essere anche su un altro satellite, magari non ricevi per quello, siccome Astra e Otubird sono vicini, uno a 13 e l'altro è a 19, tu il segnale ce l'hai forte, magari le frequenze che ci hai impostate nel decoder sono impostate per Otubird, tu magari sei su Astra, siccome sono molto vicini i satelliti, per quello che magari non ricevi, perché se c'è il segnale vuol dire che il coso sta funzionando, prova a spostare appena appena la parabola a destra o a sinistra, e allora tu sei adesso. Se sei ad Astra, sei, diciamo che sei Astra che è molto forte, 19 gradi, devi spostare verso, lasciami pensare, verso destra devi spostarti la parabola. E vabbè, adesso provo a vedere come sono le impostazioni, dopo e provo, ma se non ci riesco già viene Fabio e Pomponio domani con lo strumento e tutto, e dice che risolviamo, perché sicuramente sono le impostazioni, io penso. Io non so neanche come resettarlo, perché dice che si può resettare il ricevitore, boh. Sì, c'è impostazione di fabbrica, ma non cancellare, lasciale stare, perché ci sono già impostati i transponder, molto vecchio, da molto c'è questo decoder. Ah, oh, che l'ho comprato ieri, e di quelli nuovi, E quindi è aggiornato, non toccare niente, non resettare niente, tu lo sai dove devi fare, Natalie. La parabola vicino a te, riesci a salirci, a toccarlo? Sì, è fuori dalla finestra, ti sto dicendo. È vicino, gli ho fatto passare il cavo nel muro, no, dove passa il cavo del ricevitore, e quindi gli ho tolto il cavo fuori, gliel'ho agganciato e tutto. Allora, siccome tu mi hai detto c'è il 100% segnale, così ti stanno il segnale 100%. Fortissimo il segnale. Allora tu sei fuori satellite, fai la prova come ti dico io, ma poco poco la devi girare la parabola. Allora fate un segno con un pennarello, in modo che poi la rimetti nella stessa posizione. Lo fai dove fissa il palo e dove fissa la parabola. Lì fai un segno in linea col pennarello, in modo così dopo se la devi rimettere nella stessa posizione e non sbagli. Siccome il satellite è talmente forte, tu probabilmente sei su un altro satellite, che sono molto vicini. Lì c'è il 13 gradi, il 16 e il 19, tu probabilmente sei uno di quelli vicini. Per quello tu ci hai impostato la frequenza, per dire, sui canali RAI, facciamo un esempio, perché TV SAT te lo dà la RAI, ci hai impostato canale RAI e quello sta ricevendo il segnale, però non riesce a ricevere la stazione perché è un'altra frequenza, per cui fai come ti dico io, gira appena appena a destra la parabola, tu la giri verso, allora lasciami pensare, tu sei orientato a sud, quindi per andare per Astra devi andare a sinistra, devi girare la parabola a sinistra, verso sinistra, no scusa, tu eri a sinistra, eri su Astra, gira verso destra, stavo dicendo giusto, gira ma di poco, appena appena, a pochi gradi, sono 6 gradi di differenza, perché è una cosa impercettibile, fai come ti dico io sono sicuro che come giri funziona. No, non c'è verso, siamo stati tutta la sera ieri. sicuramente sono i parametri da impulsare. Adesso lo accendo dopo e controllo i parametri. Se intanto Fabio se ne intende, capito? Ma ha detto se c'è il libretto delle istruzioni e tutto. E gli ho detto di sì, domani mattina viene, compro un pugno e me la mettono a posto loro. Perché se mi staccano le antenne poi non vengo la DVMI. Ma tu se vuoi fare una prova, siccome c'hai già impostato di fabbrica i transponder, l'hai fatta la cosa, la ricerca canale, sei riuscito a fare la scansione dei canali, l'hai fatta? Mi dice che non c'è nessun segnale nonostante arrivi al 100%. Allora come ti sto dicendo io, tu cioè, sei su un altro satellite, non sei su Astra, cioè non sei su Outbuild, sei su Astra, girati appena appena a destra di pochi gradi, guarda che un secondino mi lo vedi subito, ti sposti appena appena di 6 gradi, Natalì, e poi rifai la ricerca dei canali e vedi, io sono sicuro che lo ricevi subito. Se mi stai dicendo 100%, tu sei su un altro satellite, se non ti carica i canali vuol dire che non sei su quelle frequenze lì. Lo so, vediamo un po'. Dopo prima controllo i parametri che ci sono nei cusi, perché non riceve segnale questo cazzo della roba. I canali non li scarica. Certo, se tu ci hai portato per dire la frequenza 12.540 orizzontale con quei parametri, FEC 3 quarti, symbol rate eccetera eccetera, e tu sei su un altro satellite, quel satellite non ce li ha con le frequenze, per cui cosa va a caricare se non ci sono su satellite le frequenze? Tu sei su fuori dal satellite, lui è venuto con quei piccoli strumentini che ti fanno bip bip bip bip quando prende il segnale, come a lancetta o digitale che gli dà il segnale, che pompone. A lancetta, cazzo, se avevi avuto uno vicino in via, gatto, l'avevi fatto venire e me l'avevi buttato a posto subito. Almeno per togliermi il coso, che se mi tolgono le antenne, poi la televisione non la vedo più. Natali, ti sto dicendo, fai come ti dico io, prova piano piano, allenti appena appena, prima si segni la posizione, ha preso un abbaglio Antonello Pompugno, lui è entrato su un altro, ha visto il segnale, è forte, però è su un altro satellite, lui si è spostato su un altro satellite, su Outbuild, anziché su Outbuild si è andato su Astra o a 16 gradi, dove c'è Outersat, l'altro a 16 gradi, lui il segnale lo ricevi forte, però sei su un altro satellite, io sono sicuro, se tu adesso metti i parametri manualmente, io ti do le frequenze di un satellite di Astra, di un transponder, io sono sicuro tu apprendi e fai la sintonia manuale e ricevi, tu sei orientato su Astra, se mi dà 100% sicuramente sei su Astra, prova a girarti appena appena verso destra l'antenna, ma poco poco mi 6 gradi devi andare e io sono sicuro fa di nuovo il carico dei canali e funziona. Sì, ma io l'ho spostato, adesso è meglio che venga Fabio domani mattina insieme a Coso e me lo controllano loro, magari ha sbagliato anche l'inclinazione della parabola con pugno, forse non è perfetta a 40 gradi, boh. Ma chi ha detto 40 gradi? Bisogna avere le coordinate, latitudine e longitudine, sono dei parametri da rispettare, ma se tu stai mettendo il segnale al 100%, sei quasi, quasi al coso, ma il 100% che te lo stanno il ricevitore o lo strumentino di pompugno? Fammi capire. No, anche il ricevitore, solo che la qualità del segnale non esce. È certo che non esce, se tu sei su un'altra, è come tu stai ascoltando le HF con un ricevitore per le V, è la stessa cosa, il principio è lo stesso, tu devi avere la frequenza impostata sul ricevitore di quel satellite, siccome tu sei fuori gradi, tu sei su un altro satellite adesso, il ricevitore siccome è impostato su 13 gradi est, ovest, su Outbuild, qui ovest, scusa, 13 gradi est, sei impostato su Outbuild a 13 gradi est, tu sicuramente sei fuori satellite, sei su Astra, per arrivare al 100% sei sicuramente su Astra, perché il 16 gradi, il satellite a 16 gradi, non è fortissimo come segnale, ci vuole una parabola a meno 80 cm, quanto sei tu di parabola? Mi sembra saranno 90 cm, e già è grande questo. Io sono sicuro al 100% che tu sei fuori satellite. Lui ha fatto la prova con quello indicatore ad ago, ha ruotato e ha visto il segnale massimo. Sì, il segnale massimo di un altro satellite. Te lo dico con certezza, Natalia, io non so quanto era giubbiassato di barabole, ma non giocattoli come queste sono fesserie. Al mare quando andavo a Platamona, a tutto Platamona mi chiamavano, io vai qua, di lì si può fregare. Però con questo digitale non ci sono problemi. Tu c'hai già il vantaggio che tu hai impostato le frequenze, tutti i transponder con tutti i valori, tu devi fare altro che girare appena la parabola a destra e poi vedere sul ricevitore, e sono sicuro che tu funziona subito. Fai quella prova lì, Natale. Vabbè, adesso l'accendo e provo. Prima provo a vedere se l'illuminatore è universale, dai. È certo che è universale, no, non esiste. Poi a parte il decoder non te lo potrebbe leggere, se fosse quelli di vecchia generazione, si fa per dire, che ti fanno la polarizzazione elettricamente. Tu ce l'hai universale, che c'ha il sistema a 12 kHz, che ti commuta orizzontale e verticale con i 12 kHz, mentre gli illuminatori, quelli diciamo di un certo rango per fare altri tipi di lavoro, hanno la polarizzazione, e lo devi alimentare a 13 o a 18 quando fai certi tipi, nei motorizzati o cose del genere, diciamo. Devi utilizzare, ma tu c'hai un'antenna offset, classica antenna che c'hanno tutti. Nel caso mio dovevo utilizzare un altro sistema per fare orizzontale e verticale, dovevo alimentare perché io l'ho motorizzato l'antenna. Tu fai come ti dico io, Natalia, sposta appena appena l'antenna, ma poi se mi stai dicendo che ti dà 100% di segnale, è attivo, per cui l'alimentazione gli sta arrivando, i 12 kHz di commutazione ci sono, se no non avresti preso niente, non ti dava 100% di segnale. Tu adesso prova a girare poco poco l'antenna e te ne vai su un canale Rai 1, quando vedi che si viene tu ti fermi, lascia impostato Rai 1, tu scrivi dove c'è il canale 1, tanto sono in ordine sul decoder, metti 1, lasci la vedi la televisione quando sei con la parabola, la vedi dalla posizione dove c'è la parabola. Allora c'è scritto nessun segnale rilevante, c'è Boeing U1004, nessuna informazione, nessuna informazione, adesso vado sulle impostazioni. Ma se metto che c'è la segnale 100%? Ma adesso l'ho acceso appena adesso, capito? C'era il segnale al 100%, adesso vado sulle impostazioni. Metti dove c'è scritto qualità segnale, tu guarda di lì, impostazioni, e c'è scritto segnale, intensità e qualità, ci sono due barre, e poi metti canale 1, imposta col telecomando, scrivi 1, tanto sono già impostati i transponder e le frequenze, e poi giri la parabola appena appena a destra, io sono sicuro che tu sei fuori satellite. Allora c'è impostazioni di sistema, ricerca canale, diagnostica, avvia upgrade, impostazioni predefinite e rete. Vabbè, rete non ti interessa, tanto non devi fare niente. Guardati qualità segnale, dove c'è scritto regolazione antenna, poi c'è un tasto qualità o intensità segnale. Ebbene, Natalia. E aspetta, sto guardando, un attimo. Ciao Robè. Ciao Riccardia. Ok, ma tu sei? Sono appena entrato, mi sono fatto un bagno in piscina, sono appena arrivato. Com'è, la fredda l'acqua? No, si sta bene. No, sono entrato anche io adesso, sto dando delle indicazioni a Natalino per impostare la parabola. C'è Claudio in sottofondo. Ah? Sento Claudio in sottofondo. Anche io lo sento, tic tic tic, tic su 14. Cavolo, però lo sento forte, sembra che sia su 10. No, io non lo sento parlare, però sento delle scariche, cric cric cric cric, come quando c'è... No, però non riesco a capire quello che sta dicendo. Diciamo è abbastanza filtrato quello che c'ho io. No, ma io sento proprio parlare, si capisce bene quello che sta dicendo. No, io non lo sento quello che sta dicendo, vedo delle scariche, tipo quando c'è il fulmine o cosa del genere, mi sono spostato e su 14 comunque. Cavolo, cos'è il problema mio dell'apparecchio, che sta andando male? Ma arrivano allineati un pochettino, dai, non è che va a andare, diciamo sono apparati che col tempo vanno un pochettino riallineati, dai, ma non è niente di grave, non ti preoccupare. Ma tu lo senti chiaro o chiaro? Sì, lo sento chiaro. Vabbè, no, io proprio non sento niente, sento un rumore così. Poco poco distorto, così non si sente, però già lo sento bene. Oh, Roberto. Dimmi, Natà. Allora, c'è misuratore di segnale satellitare, numero LB1, frequenza e vento GHz 12,731. Symbol rate 29.900, polarizzazione orizzontale, roll off di VBS c'è scritto. 29.900, allora ti devi impostare, aspetta, ti do una frequenza, gliela metti manuale, aspetta, è 27.5 symbol rate, aspetta che te la do io, allora aspetta un secondo Natalia, che te la cerco, che a memoria non... Però come devo fare a impostarla la frequenza? C'è un affare. La puoi scrivere con la tastiera, ci clicchi sopra e scrivi, adesso ti do la frequenza di Rai. Natale! Dimmi Ricca. Da chi sei? Hai fatto il bagno nella casa? Io ho la doccia. Il segnale è al 95% qua. Aspetta che ti do la frequenza, così bucherà e ti devo dare. E cappa. Vabbè. Dimmi, Riccardo. Ma c'è qualcosa che si può fare adesso o no? Devo mettere la TT per abbassare un po' i segnali, perché Claudio è troppo forte. Aspetta che provo. Allora ti chiudete un po' l'RFG, ma se non ti dà fastidio la tarina non la frega te ne. Perché praticamente quando c'è bianco sento a lui. Cioè quando parla la tarina lo copre lo splatter di coso, di Claudio. No, quando parla qualcuno non si sente lui, si sente solo quando c'è bianco. Allora Cali, impostati questo è il bouquet Rai Transponder 54, dove c'è Rai Sport, Rai Gulbo, Rai Storia. Scrivi 11804, scrivi queste frequenze. Eia, 11804, così è. 11804, verticale, symbol rate 27,5, FEC 2 terzi, questi sono i valori di impostazione. Però qua c'è polarizzazione orizzontale solo. E c'è 29.900. Dammi quella frequenza e ti dico cosa c'è su quel trasporto. A 29.900 c'è un altro bouquet Rai H1, c'è HD, voglio dire. Com'è? Allora guarda, te li dico io i valori. 11.766 e 29.934 verticale, così c'è. Allora 29.9 symbol rate MS/S. Oh, dammi la frequenza e ti dico che cosa è quel caso. 29.900 è. 29.900 il symbol rate, la frequenza è in gigahertz. E da dove te la do che non te lo dice? Come non te lo dice? Se me l'hai detto poco fa tu la frequenza. Dovrebbe essere 11 o 12 gigahertz. Ah, 12.731. 12.731. Mi vedere con 12.731 cosa c'è? 12731, allora sì, quello è il bouquet di Sky, non prendi niente che è codificato quel canale. 12731 orizzontale c'è scritto. Sì, 29900 orizzontale. Allora, 29900 il symbol rate, la frequenza è 12731 orizzontale, FEC, poi c'è scritto FEC 5/6, quello è criptato di Sky, è il transponder di Sky, non andare di lì, è su un altro transponder tu. Come faccio? Dimmi tu cosa devo fare. E fai scorrere la lista dei transponder, c'è scritto transponder, li fai scorrere, registrato il break, fai scorrere e vedi cosa c'è. Se no te la do io la frequenza, la metti manualmente. Che avanti il break. Sì, radio è 5, il segnale è 9 più 15 con picchi positivi. Prova a parlare, ti ascolto un po' meno. Così, dai, ti porti appresso una specie di disturbo, un po' saturo, leggermente saturo. Come mai? È riuscito perfetto l'altro giorno, come mai? Sì, va bene, ma non è eccellente, la radio è chiara, però non è quelle che piacciono a me pulite, c'è un po' di www. Ok, dai, ben sentito, tanto anche io tra poco devo uscire, sto dando delle indicazioni a Natalino, vai Natalino, avanti. Buongiorno alla tua lista canali, reinstalla la lista canali, ricerca canali manuale. Allora vai a ricerca canali manuale, io ti do la frequenza, dai, così non li basta. Ecco, questa c'è numero LB1, frequenza evento 10992. 27.500 è il symbol rate, polarizzazione verticale c'è scritto qua. Ecco, 10.992, così. Sì, sì, il symbol rate è 27.500, però la polarizzazione verticale. Allora, 10.992, vediamo chi c'è. Aspetta un attimino, sto guardando. 992, sì, questo è il bouquet Rai 1, sì, quello lì, rimani su quello. Polarizzazione verticale, symbol rate 27.5, confermi? Si conferma. Allora, quello è il bouquet Rai, ok? Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News, e poi c'è Rai 4, che Rai Movie c'è in questo coso, in questo bouquet. Poi vado lì, adesso muoviti, rimani su quel canale, non toccare niente. Tu adesso giri appena appena a destra la parabola e vedi se aggancia. Rimani, ce l'hai vicino il televisore alla parabola. Sì, esco dalla finestra e la muovo a destra, così mi hai detto. È al 99%, però la qualità non te la dà del segnale. Come fa a darti la qualità se sei su un altro satellite con una impostazione diversa? Questi transponder su Astra non ci sono, è come che tu non stai ricevendo. Cioè il segnale è forte perché però non hai il coso, non hai la qualità perché non riesci a ricevere il transponder. Tu adesso prova a girare a destra, io presuppongo, considerando che c'è un'antenna piccola, che tu sei a 19 gradi su Astra, dovresti girare appena appena a destra di 6 gradi, ma impercettibile in realtà lì, verso destra, sempre che sei su Astra, ma che non sei su un satellite più avanti, fai la prova così e poi segnati con un pennello la posizione della parabola, mio, ossia che poi non riesci a ritrovare. Ecco, avanti. Vabbè, non è il satellite, ho parlato con Antonello, eravamo lì insieme, ogni mattina ci vado con lo strumento, così almeno non ci siamo problemi. Ma lo so, cacchio, ma già se ne ho messo lì, ma non giocattoli, quelli sono fesserie. Vabbè, ma quando fai impianti motorizzati come quelli che ho io da 2 metri, che ci sono un sacco di parametri e cose rispetto a lui, probabilmente è su Astra a 19 gradi, considerando che c'ha un segnale, intensità di segnale così forte, probabilmente è su Astra, non credo che sia su 16 gradi su Otersat. Lui è sicuramente su Astra, ha detto prova a girare appena appena a destra e sono sicuro che lui aggancia. C'è C barra NDB 8,6, 100% del segnale, 99, però è sul 100%, è fortissimo, e c'è scritto per 1.0. E ci deve essere un illuminatore mio, strumento, pennarello, metolato, ciao. Sì, ma no, guarda, è una cosa più semplice, anche con una padella riesci a agganciare 8 bit, talmente è forte, se tu prendi un coperchio di una pentola, li metti un supportino per l'illuminatore, prendi anche con una padella, lo sai, con un coperchio, già fatte le prove, per curiosità, è talmente forte, 8 bit, poi il coso, il fascio di radiazione della RAI è proprio sull'Italia, per cui più forte di così non ce n'è, basta una parabola da 30 cm per agganciare il segnale, per avere una buona qualità. C'era qualcuno che chiamava, avanti chi chiamava? Il valore di DB sta cambiando adesso. Sì, è 7, 7, 1 e 7. Adesso provo a spostarla appena appena, dovrebbe fare qualcosa, no? Segnati la posizione così non sbagli, gira appena appena a destra, secondo me tu sei a 19 gradi o meno probabile a 16, al 99% sei a 19 gradi, giri appena appena a destra tu. Chi era che chiamava qua sul canale 10 il break? Il casotto quando devi fare le regolazioni di impianti motorizzati di un certo livello, direi che ci vuole un po' di attenzione, ma questi io andavo via col camper, 2-3 secondi e andavo. Sul camper una parabolina da 40, sicura. È uguale, la stessa cosa, giù a Platamona io andavo, riparte a sapere dove è il coso, il sud, punti a sud e non sbagli, se c'è la bussola per dire se sei nel deserto non sa dove cacchio è il coso, oppure in base alla posizione del sole sai, da quella parte lì c'è il sud e sai più o meno l'orientamento, giravo, tac, ma se sei in città basta girarti lo sguardo, ci sarà qualche parabola e attacca, ti gira occhi chiusi, vai, tac e attacchi. Adesso è molto più semplice perché sono già tutti impostati dai code, sono tutti LNB universali, prima invece era un po' più complicato perché c'erano quelli che avevano l'alimentazione a 13, a 18 eccetera, e dovevi fare diverse impostazioni, adesso questi TV SAT c'hai già tutte le impostazioni, tu si trasfonde tutte le frequenze, pile attacchi. Scappa, non è conformato a me, vabbè, non ha cambiato niente. Poi sullo strumento avevo sempre tutto, prima se lo strumentavo la scala al volo. Non so cosa dire. Giravo la parabola, non facevo in tempo a girare la parabola, tac, subito segnale alto sullo strumento. Quella che avevo in campagna io l'avevo qua, ho dato anche decoder, ne avevo uno di decoder buono, ma in 5 minuti l'ho piantata da solo senza niente. In 5 minuti sono riuscito a prendere tutto. O c'è qualche impostazione? Scusate un attimo il telefono. Richard. Eia. Come stai? Bene, bene, tutto bene, mi sono fatto un bagno. In piscina? No, nella vasca, certo che in piscina. Bene, bene, fa piacere. Ora questa cosa del Covid, magari la spesa piena, qua e là, ma insomma, ti ha aiutato. E sì che ce ne torniamo a casa, non ci butti in piscina, ciao. Aspetta che sono rientrato, non ho capito tutto il disco, poi mi ha chiamato mia figlia. Cos'è la tali dimmi? Non ha cambiato niente. Ma tu sei sul canale di Rai 1, nel telecomando 1 l'hai schiacciato tu. Metti come che stai facendo la televisione. Spegni tutto, riaccendi e scrivi 1 nel telecomando. Non ho capito cosa sta succedendo, se posso. Sta cercando di fare una regolazione via telefono, dai, via baracchino, dai. È abbastanza semplice, dai. Sta impantalandosi Natalino. Stavo dicendo, scusa Fabio, non ho sentito tutto il discorso perché ero al telefono con mia figlia. Poi ho interrotto un attimino quello che stavi dicendo, se vuoi ripeto. No, fatti casino, che c'è la piscina, no? C'è la spesa piena per il Covid, i calzini e fila, piscina, mi tira un pineva e siamo a posto. Ma è bassina, devi stare attento, non buttarti di punta. No, nessun segnale rilevato, mi dice, e canale 1 non trovato, è su Boeing 1004 HD. Ho capito cosa hai detto, ma ha agganciato qualche canale, l'ha agganciato? L'aveva agganciato, è su Boeing adesso, qualche canale l'ha agganciato, però adesso non ne arrivano più di canali, non c'è nulla da fare, boh, diciamo da gatto, va. Aspetta Natalia, Boeing l'hai preso tu, confermo. Boeing c'è, però dice nessun segnale rilevato. Ma su che canale hai postato? Me lo spieghi tu, nel telecomando che numero c'hai nella lista canali? Boeing sarà 35, 40, cantore. Aspetta che guardo, è un casino, no? Aiu. Esci fuori da tutto, dal menu, scrivi 1 che ti deve apparire 1 e ti esce Rai 1 e poi vai sulla parabola e la sputti. Quando vedi il segnale vuol dire che hai agganciato. Com'è Boeing 40? Appunto, lui qualunque canale riesce ad agganciare, tanto sono tutti furti come intensità. Lui ha letto nello screen display, ha letto il nome del canale, che buco. Guarda, vai su Rai 1 che è più facile. Natalino, te ne conosco più. Ciao Robè. Ciao giù, ben sentito. Che pari mole, cose difficili, mamma mia. Non so come farlo andare. Hai messo Rai 1, canale 1, l'hai messo? Adesso sto uscendo da tutto e lo metto su Rai 1 quando lo riaccendo, lo spengo. Nessun canale rilevato, spento. Adesso lo riaccendo. E metti Rai 1, puoi uscire anche con direttamente dal telecomando. Metti 1 adesso, così siamo sicuri che sei sul canale 1. Canali TV. Cacchio, ma è difficile Natalia schiacciare 1 nel telecomando. Ma quello del decoder o del televisore? Cosa vuol dire del decoder del televisore? Ma tu lo stai utilizzando il decoder, cosa c'entra il televisore? C'è il decoder esterno tu? Cioè come sei? Via SCART, via HDMI, che tipo di cosa stai utilizzando? Ti appare le informazioni del decoder sul televisore? Sì, sto usandomi uno non trovato di Dizzy. Vedi, non trovato. Rimani sull'uno tu, stai servendo i buchi di confusione. Allora, prima di tutto il decoder è collegato al televisore e ti appare nel televisore le informazioni del decoder, confermi? Sì, in HD1 o una cosa del genere è collegato per vedere queste informazioni qua. Ok, e ci siamo. Adesso vai sulla parabola, tu non toccare il coso, lascia acceso il televisore e il decoder su canale 1, Rai 1, prova a girare la parabola appena appena a destra e vedi cosa succede, ma poco poco, 6 gradi, perché sei a 19, adesso vai a 13 e vedi se aggancia, dagli qualche secondo per agganciare perché deve prendere le informazioni, non è che è istantaneo come quelle analogiche di prima, ci sono un sacco di parametri che deve leggere il coso, il decoder dall'illuminatore. Tu ti sposti appena appena a destra e vedi se aggancia, gli dai qualche secondino e vedi se aggancia. Cazzo Robè, ma hai attaccato di nuovo quel commutatore? Commutatore? Cosa hai attaccato? Nulla, perché? Allora c'è un'armonica al canale 14 a Santiago Nord, sto parlando con un portatore, se non sento niente, mi sono spostato al 16 e ti ti sento lo stesso. Cosa succedendo? Oh, addirittura mi stava parlando di quello con Riccardino, lui ti ha ascoltato anche io, gli ho detto c'è Claudio sul 14, ti sentiva te sul 14 o sul 10, sentivo degli sbatter ma leggeri tu, Riccardino dice ti ascolta bene sul 9 e sul 10. Io sto usando la radio che uso sempre, questa, ma c'ho 10 watt e 20 modulati, ma te ti sento proprio fortissimo, con 440 di splatter proprio, vabbè. Va bene, cambiamo veramente radio, adesso vado con gli AIS, vediamo. Che cazzo, mi sono rompito le balle, ciao a tutti. Mi ha detto addirittura Riccardino che ti sentiva più di Santiago 9 e disturbavi a Natalino. A me non disturbo, non me ne davi, sentivo tipo scarichette, ho detto invece avesse qualcuno vicino e eri su 14, però non mi davi fastidio. Riccardino invece dice ti ascoltava Santiago 9. Ok, Natali fatto. Fabio, ci sei ancora? Ho fatto ma non ho provato niente, nessun segnale rilevato. Ma l'hai allentato il coso? Come la stai girando la parabola? L'hai mollati le staffe di sotto? Ehi, l'ho girata, nulla, non c'è nulla. E come ti chino così antenna? No, sono Natali, bisogna vederlo, dai, sul posto per telefono, per radio non fa. Attaccata un po', ma è la cosa più semplice è attaccarti. Visto che c'è già tutto impostato, non devi ne fare frequenze manuali, perché se devi impostare manualmente una cosa, devi essere un po' pratico impostando tutti i parametri, ma c'è già le cose TV SAT, è già tutto in automatico, ti fa tutto da solo, c'è l'indicatore di segnale, giri, tacchi e vedi. Non lo so Natali cos'è combinato. Vai Giulio. No, volevo solo chiedere a Natali, Natali, ma la parabola dove l'hai messa? Dove l'hai piazzata? Fuori dalla finestra, Fuori dalla finestra, ma dove? Appoggiata al muro, così. Da quale parte lo prendi tu l'orientamento a sud? Come fai a prenderlo dalla finestra così? Come faccio? Ci sono le altre parabole girate e le ho orientate dove sono girate le altre parabole. C'avevamo anche lo strumento per il segnale ieri. Non è che l'ho fatto io, no, l'ha fatto Antonello, ma non avevamo grado B. Ma lei mette a 13 gradi di orientamento su Gutenberg? Cosa cazzo ne so cosa ha fatto, visto? Oh. Adesso domani deve venire Fabio con lo strumento e tutto e vediamo un po'. Oh. Tanto io non mi occupo. Io quella che avevo piazzato in campagna in 5 minuti l'ho piazzata. Chissà come si chiama via segnali. O è l'illuminatore partito, boh. Ti dice un bel segnale, però cazzo canali non in biglia. Ma se ti dice che c'è il segnale vuol dire che le cose, il convertitore sta funzionando. Tu sei fuori satellite, al 99,9% sei su Astra, non sei su Autobuild, perché se l'avresti agganciato subito, immediatamente. Eppure non ci sono riuscito, Robè. Ci vuole uno che lo guardi questo coso con i parametri che ci vogliono e tutto. E si vede la situazione, già lo controllano domani mattina, dai. Io è inutile, non c'ho né strumenti né nulla, ce l'avevo che l'ho perso, se no. Ma senza strumento non lo puoi fare senza strumento, quelli ad ago, quelli che stai dicendo tu che fa Antonello, quello ti dà solo l'intensità del segnale, ma di qualunque satellite, non ti identifica il satellite. C'è uno strumento invece, almeno non dico professionale, semiprofessionale, che ti riconosce il satellite, a quel punto lo puoi fare, che ti dice sì questo è Autobuild e ti riconosce anche il satellite, perché ogni satellite ha dei parametri per riconoscere lo strumento e ti indica esattamente il satellite. Lui ha visto il segnale forte, ha preso, ha regolato, ma lui è fuori satellite. Satellite, 99% come ti ripeto è su Astra, non credo a 16 gradi su Etersat, non ci credo perché non è così forte, non arrivi a intensità così forte con una parabola piccola. Non so cosa dirti, io in campagna l'ho messa in 5 minuti pigliato tutto, però era un diverso decoder, una diversa parabola, addirittura poi gli aveva aggiunto un illuminatore e prendevo sia Astra che Autobuild, ma in 5 minuti mi era orientata, infatti dalla volta non l'avevo più toccata, ne l'ho tolta quando me ne sono andato, non c'ho neanche più neanche quel ricevitore. Se c'avevo anche lo strumento io e non so che fine ha fatto. Ed era qua a me, fa lo spezzone, è tutto già fatto. Ma fammi capire una cosa, siamo sicuri che tu stai leggendo 100% di segnale, che è tantissimo, di intensità di segnale, sei sicuro di questo? 96, 100, capito, però la qualità del segnale non te la dà perché sono fuori satellite, giustamente, che c'è la cosa, no? La striscia verde. Allora, tu hai girato verso destra, quindi la parabola, gira verso sinistra, rimetti nella posizione del segnale e prova verso sinistra, dai, non vorrei che Mario anziché su altra sei dall'altra parte. Ma che cavolo, va, lui la usi, dai, sai, tanto è a prenderti i nervi e basta. E a quanti gradi l'hai regolata la parabola? Io sono convinto che in quella stradina non entra perché è troppo vicino da muro a muro. Tu essendo al primo piano lì, se te lo metti nella finestra, io sono convinto che non entra per quel motivo lì. Sarà molto difficile, dovrei metterla più in alto e allora la puoi sicuramente sintonizzare bene. Io penso che sia così. No, ma se c'è l'intensità di segnale, il coso della parabola, poi se ci possono essere degli echi, dei riflessi, ma se è 100%, è tanto 100%, come intensità di segnale. Lui non credo che sia a 10 gradi, è più probabile che sia a 16 o a 19. Lui deve fare solo una prova, andare un po' prima a destra e poi a sinistra. Se è a 10 gradi è solo interessato 10, per cui deve girare verso sinistra. Se invece è a 19 è di altra o a 16 dell'altro, è interessato, deve girare viceversa a destra. E Rudagussi e Fozzovini anche Cichi Rusani, come ti dici. E così almeno mi evito tutte le incazzature, capito? Va bene, dai, non c'è problema. A me una volta mi ha fatto perdere un po' di tempo per un satellite a 16 gradi, perché io di parabola ne ho tre, ne avevo messo una piccolina fissa per un decoder particolare, dai, per certe cose particolari. E dico, cacchio, ma possibile? Alla fine il problema era che c'era un riflesso, un eco, l'ho dovuto cambiare, il palazzo faceva riflessione, l'ho dovuto mettere più in alto, sopra il palazzo, ho risolto il problema. Ma io più in alto non la posso mettere. Capito? Perché io sul tetto non ci posso salire. No, ma tu non c'è bisogno di cosa, che cacchio c'è, tu mica c'hai palazzi o alberi che ti chiudono, quindi stiamo parlando di casi critici, non è il caso tuo, il segnale arriva dal cielo, per cui non c'entra niente se lo metti in terra a mezzo metro o se lo metti a 10 metri, se non hai ostacoli di palazzi o di alberi che ti fanno, ti chiudono l'orizzonte, non ci sono problemi. Il problema, sai qual è, Robert, che lui è un po' all'interno di quella stradina, probabilmente se piazza l'antenna all'angolo ha la possibilità di girarla come si deve e trova il segnale, trova l'orientamento, sicuramente è così, lo so, il segnale lo puoi mettere anche sotto il tavolo, sotto terra e lo prendi sempre, però se non riesci a trovare l'orientamento sui 13 gradi, quello è il discorso, è difficilissimo. Io sono convinto che è così, siccome lui abita in una strada molto stretta, magari ce l'ha attaccata alla sua finestra e non ha modo di girarla veramente verso dove deve andare. E come fai? Se giri, tocca al muro. No, ma Natali, perché non te la metti all'angolo della strada di Corso Trinità? Buona cara, buoni, due tasselle, te la attacchi lì e fai arrivare il filo a casa tua. E vedrai che trovi subito il segnale in un attimo. Il segnale ce l'ha già Giulio, il segnale è già al 100%, dice che lì saranno il segnale, l'intensità del segnale c'è, però è fuori satellite, è fuori gradi, e quello è il problema. Lui ci ha già prestato, c'ha il TV sat e il decoder, lo conosco benissimo, ce l'ho avuto anche io uno di quei decoder. È tutto impostato, non devi fare niente che trovare e spostarti la palla. Lui è su un altro satellite, per cui se è su Astra e quei trasporti da quella frequenza su Astra non ci sono, e lui non prende niente. E non ce ne sono con le stesse frequenze su Astra dei transporter che ci possono essere su tubi da 13 gradi, per cui non piglia nulla, è zero, è come che non sta ricevendo, è come che tu vuoi ascoltare le V con un apparecchio con le U, la stessa cosa. Lui ci ha impostato le frequenze, però quel satellite Astra non le riceve perché non ci sono nel transporter di Astra, ed è fatta apposta per non disturbarsi uno con l'altro, sono talmente vicini e potenti i satelliti, potrebbero crearsi dei problemi in certi casi, quando c'è parabole piccoline. Ok, vai Fabio, riprendi. Hai capito che lui deve girare la parabola verso la parte destra sicuramente, per puntarla a sud, ed è per quello che non ha la possibilità di girarla più di tanto, perché ce l'ha vicino al muro la parabola, probabilmente quello, per quello che ti sto dicendo, anche se al segnale, il segnale lo prendi anche senza antenna, devi immaginare, perché il decoro stesso ti dà il segnale, però poi se non centri i satellite non vedrai mai niente, è quello che le stavo dicendo, mettila all'angolo Natalini della strada, e così la puoi girare anche verso sud la parabola, e sicuramente riesci a trovare in 5 minuti il segnale. E invece io ti dico che sono girate tutte verso sinistra le parabole, qua in questa strada sono girate tutte verso sinistra, sono girate. E va bene, ma una è la posizione degli altri, devi considerare la tua posizione, Natalia, devi considerare la tua posizione. Il discorso è questo. E vabbè, già viene Fabio con Antonello domani, c'hanno lo strumento, che lui si rimagina, non so cosa cavolo è. Vabbè, già si arrangiano loro. Vabbè, dai, continuate, ciao ciao. Chi è avanti? Natalino, hai perso il fluido. Sì, mi sono rotto le balle. Ciao Marco, buonasera. Marco. Ciao a tutti, sto mangiando. Ciao Fabio, dimmi tutto. Marco, tu sei Natalino, devi attaccare l'accordatore, tra il decoder della parabola. Vediamo un po'. Magari qualcosa prende. Eia. Ascolta Natalino, ma poi avevi risolto col ricevitore invece, per il reset? Già ho risolto tutto. Ho le balle girate e domani me ne stacca l'antenna a quello. Ma già diciamo i carabinieri, c'ho il foglio qua, glielo faccio leggere e glielo faccio identificare a lui e al padrone di casa, così ma vado con mia moglie e li denunciamo subito. Così mi pagano i danni. Bianco per me. Eia. Ma solo che Natali, come mai tu hai già preso decoder, parabola? Cioè, l'impressione mia è che tu stai già dando per scontato che l'antenna te la tolgono. E invece non deve essere così. L'antenna non va toccata. Boh. Io per il sicuro mi ho preso la parabola. Perché quello è un prepotente. Capito? E io non mi voglio rovinare, se no se voglio io prendo il fucile e gliele sparo tutte a palla le antenne, gliele butto tutte giù, non sono d'altro, se mi voglio compromettere mi proprio, se no sparo pure a lui. Era bravo, oh, c'è Riccardino, un'ora in riposo, facciamo a prendere Riccardino. Ciao Robe, scusa che credo che aveste chiuso tutti, che sono andato in cucina. Ehi, aspetta, forse avete parlato di... Vai Riccardo. Ok, grazie Robe per il mic, saluto a Marco, ben ascoltato. Anche ma tutti nervosi siete, questo coronavirus vi ha fatto male a tutti, state bravi e tranquilli. A me. Peccato però per questa questione di Natalino, delle antenne, del vicinato poco affabile potremmo dire. Ma io non mi sarei preoccupato più di tanto, se ero andato per la mia strada mi sarei messo a posto, non mi avrebbe detto nessuno, ci sono i diritti dell'antenna, non si possono toccare perché esistono delle leggi del codice civile, per cui lui può fare, guarda che sei tutto regolare, tutto a norma, cavi buoni, antenne che non siano messe male e apparecchiature omologate, e poi può venire Bururu Presidente della Repubblica, non ti cerca nessuno. E infatti io prima di scoppiare, perché sono sul punto di scoppiare, li chiamo i carabinieri io domani, a chiunque si metta sul tetto a smontarmi l'antenna, dico non toccare niente mi, che stanno arrivando i carabinieri. Tu non ti devi neanche compromettere, prima di tutto fallo davanti a testimoni, qualunque operazione, sempre gente davanti, non si sa mai. Fatti le fotografie dell'antenna, ti metti un giornale vicino con l'antenna in modo che sia anche la data in cui è stata fatta la fotografia e c'è delle prove. Il 12 dicembre 2020 c'era la parabola, o chi su che è un'antenna, e c'è di lì. Poi un testimone, se per caso viene qualcuno, prima di fare intervenire il carabinieri, non c'è bisogno di arrabbiarsi, niente. Se deve arrabbiare lui, parte dal presupposto posto che tu devi stare tranquillo e sereno, c'è da arrabbiare l'altra parte, se no vai in tortura Natale. E infatti io domani scendo con la macchina fotografica, c'è un obiettivo da 300 mm, allora posso fotografare toccando l'antenna mia. Disoccupati, e quando scendi, sei mesi d'ospedale, ti faccio fare. Gli dico, aspetta che stanno arrivando i carabinieri, gli dico adesso. A chi come trova il cazzo mi telefono subito dai carabinieri. E le posso venire. Così